versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, benvenuti da Oscar Giannino qui alla versione di Oscar. Oggi questo 7 gennaio dopo la Befana del 2014 iniziamo toccando uno dei temi caldi di questa agenda che il governo ha iniziato da oggi stesso a ridefinire. In pochi giorni ci dovrebbe essere questo patto di coalizione per durare in teoria fino al 2015. Oggi il Presidente del Consiglio inizia incontrando i partner minori della coalizione e nel frattempo Renzi ha avviato, leader del PD, i contatti con le maggiori forze politiche, a dire la verità innanzitutto con Forza Italia, sulla riforma elettorale. Però noi affrontiamo il tema del lavoro, quindi io chiedo a chiunque di voi avesse dei problemi o delle domande su temi come esodati, pensioni, integratori, gli ammortizzatori sociali, cassa integrazione e così via, chiamate pure perché c'è un esperto che oggi ci accompagnerà per capire alcune delle questioni che sono aperte in vista del Job Act di Renzi, che è atteso per la fine della settimana prossima, così ha detto ieri, e per commentare alcune delle proposte che intanto ci sono già sul giornale di oggi. Numero verde per chiamare, lo sapete, 800 24 00 24. E vi presento subito l'ospite che è con noi oggi, è con noi Giuliano Cazzola. Buon pomeriggio Giuliano Cazzola. Buon pomeriggio anche lei e ai suoi ascoltatori. Giuliano Cazzola, per chi non se lo ricordasse, è stato, quando era più giovane, dirigente generale al Ministero del Lavoro, poi ha insegnato all'Università diritto della Previdenza, è stato anche parlamentare, relatore alla Camera della riforma del lavoro 2010. 2012, verissimo. E anche c'è... 2010. Vede, io andavo in ordine cronologico, sì. Quindi di lavoro ne sa, di previdenza ne sa. Per chi fosse interessato, c'è anche un suo ultimo libro uscito da pochissimo, il titolo è Giovani al lavoro, lo ha scritto Giuliano Cazzola insieme ad Angelo Pasquarella ed Alessandra Servidori, Guerini Associati è l'editore. Io vorrei, prima di chiedere a Cazzola un commento e soprattutto delle spiegazioni su quello che c'è sui giornali di oggi, partire da un punto che a me ha fatto sobbalzare 10 giorni fa quando è apparso sul Corriere della Sera. Inizierei dalla vicenda degli esodati. Un collega molto puntiglioso e preparato, Enrico Marro del Corriere della Sera, ha in una pagina intera del Corriere richiamato le cifre della questione degli esodati, quella che si aprì con la riforma Fornero, che unificò i rapporti di anzianità e i rapporti previdenziali di vecchiaia, alzando quindi rispetto a prima molto rapidamente la convergenza dei tetti per la pensionabilità. E poi scoprimmo che c'era una questione di migliaia e migliaia di lavoratori che, avendo sottoscritto degli accordi appunto di esodo dalle loro imprese, non erano scoperte, non avevano l'età né per i trattamenti di pensione nel frattempo alzatisi, e quindi erano scoperti. E i tre numeri che richiamava Enrico Marro erano tre numeri impressionanti, perché diceva ci sono oltre 100.000, sapete che sulla stima degli esodati si è aperta una grande questione da un anno a questa parte, esodati quantomeno se non di più, si arrivò a dire oltre 350.000 gli esodati, in realtà hanno presentato richiesta per i trattamenti per i quali la politica in 5 volte successive ha disposto delle coperture in 80.000, ma l'INPS nel frattempo paga rapporti solo a 27.000 di questi. E di fronte a queste cifre io ho fatto un salto, perché ho detto andiamo ad approfondire se davvero ci sono così tanti esodati che hanno diritto e sono scoperti, ed è la prima domanda che vorrei fare a Giuliano Cazzola. Come si spiega questo fatto di 150.000 coperti in 5 interventi diversi del governo Monti e del governo Letta, anche attuale, e poi solo 27.000 rapporti pagati dall'INPS? Ma io ho fatto anch'io un salto sulla sedia quando ho visto questi dati e ho cercato anche di informarmi. Il problema è la dimensione temporale in cui queste cose avvengono, perché diciamo i 156.000 che sono le persone tutelate nell'ambito dei 5 interventi a cui lei faceva riferimento, che sono interventi anche di un certo onere, anche che costano 11 miliardi e rotti, sì, di qui al 2020, sì. Cioè sono persone il cui problema si pone nel tempo, nel senso che oggi almeno ci saranno indubbiamente anche dei ritardi, ci saranno dei ritardi che l'INPS non ammette, no? Però l'INPS dichiara che sostanzialmente questi 27.000 sono coloro a cui il problema è già sorto. Altri che magari hanno presentato la domanda, che hanno anche ottenuto il riconoscimento del diritto, si trovano ancora in una situazione magari di mobilità, perché non è ancora finito per loro il periodo della mobilità, quindi finita la mobilità e non avendo ancora accesso alla pensione, si troveranno a quel momento a riscuotere l'assegno, sempre che nel frattempo non trovino un altro lavoro. Ecco, cioè, la cosa che non si è capito quando si è affrontata la questione degli esodati, premetto comunque che ci sono innanzitutto delle regole che fanno da filtro, e quindi ci sono probabilmente non tutti quelli che hanno il problema che possono accedere perché hanno questi criteri per l'accesso, no? Ci saranno probabilmente anche dei ritardi, però è un percorso che si snoda gradualmente nel tempo, e la pensione interviene nel momento in cui sono finite le altre tutele. Questo è il dato che non si è sempre capito, che non si è sempre spiegato correttamente durante tutto il tormentone degli esodati. Quindi l'INPS dice, anche nel discorso del precedente di fine. L'INPS dice, in realtà questi 27.000 sono quelli che fuori dalla mobilità, per i quali bisogna intervenire subito, anche se le risorse per gli altri ce le hanno. Io mi limito a dire, chi è in ascolto e ritiene di essere, invece di avere tutti i titoli, di aver fatto domanda e di non riuscire ad avere una risposta sul perché non si è iniziato il pagamento da parte dell'INPS, ce lo segnali, perché questo è il nostro mestiere. Abbiamo immediatamente una telefonata da Edoardo che ci chiama da Brescia. Prego, Edoardo. Pronto? Pronto, ci dica. Ascolti, io sono andato in mobilità nel 2009. Sì. E la mia mobilità scadeva al 31 dicembre 2013. Sì. Dopo andavo in pensione regolarmente, sottoscritta dall'INPS e così. Purtroppo con la legge Fornero adesso si è allungata fino a agosto del 2014. Sì. In questi 8 mesi io sono scoperto, non prendo niente, mobilità, niente. Quindi lei giustamente a questo punto chiede, però la mobilità le è scaduta 7 giorni fa, ho capito bene? Sì, io ho finito la mobilità. Perfetto. E dovevo andare in pensione. Sentiamo, con la vecchia legge. E invece con la nuova legge Fornero si è alzato il tetto. Sentiamo che cosa le risponde Giuliano Cazzolo. Ma lui aveva maturato, entra nei casi che sono previsti dalla legge, cioè che si trovava sostanzialmente ad aver avuto la mobilità prima della fine del 2011, oppure la mobilità l'ha avuta dopo. La mobilità l'ha avuta nel 2009, ci ha detto Edoardo. È andato nel 2009. In mobilità, sì. Ma guardi, io la consiglio a questo punto loro di informarsi, di andare a un patronato o di andare all'INPS, di informarsi, perché insomma, se lui ha maturato il diritto prima del 31/12/2011, dovrebbe essere coperto. E se è nel numero dei tutelati, lei dovrebbe essere, Edoardo, nel numero dei 156.000, ma lei è già andato all'INPS, è già andato all'INPS a un patronato, Edoardo, a informare al più presto. C'è già andato Edoardo a informarsi? Sì, sì. E che le hanno detto? Mi hanno detto che la mia finestra è il 1 agosto 2014, perché io ho maturato i 40 anni al 31 maggio del 2013. Sì. Ecco, infatti allora la ragione è che non avevo ancora i requisiti. Io infatti l'ho voluto premettere questo, nel senso perché che... vede, questo è un caso esattamente dei filtri di cui parlava Cazzola prima. La maturazione piena del diritto alla pensione doveva essere precedente al 2011, mi corregga Cazzola se è così? Sì, così certo. Esattamente, allora siccome lei è andato in mobilità nel 2009, Edoardo, però la maturazione piena alla pensione l'ha avuta dopo, ecco che qui, e quindi in questo caso chiedo a Giuliano Cazzola, Edoardo resta per 8 mesi senza niente. Guardi, in questo caso però bisogna trovare un modo di provvedere. Io mi ricordo che quando se ne era parlato con il ministro Fornero si era detto che a questi casi andava data l'ASPI. Però poi io non so se poi la cosa è stata adottata. Che io sappia, no. Quindi il rischio di Edoardo è che questi 8 mesi se li fa senza ombrello, Edoardo. Si informi. È molto utile però queste trasmissioni in cui vengono fuori i casi veri. Esatto. Perché poi vede, io mi sono informato proprio in questi giorni dall'INPS, proprio perché avevo il sentore appunto di parlare con lei, che peraltro è anche un conduttore competente, e mi hanno detto tutti quelli che hanno il diritto e il problema stanno nei 27.000 e sono tutelati. In Italia non c'è nessuno che allo stato resta senza prestazione assistenziale o pensione. E questo è quello che dice l'INPS, poi bisogna verificarlo. Intanto Edoardo, informarsi, io credo che l'ASPI non ci sia, ma informarsi all'INPS o al patronato. Sentiamo Stefania da Roma, prego Stefania. Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera. Io sono un ex dirigente che nel 2009 ha patteggiato con l'azienda dopo, diciamo, con 31 sì. anni di contributi. Purtroppo non avevo fatto le scatole degli anni di università e attualmente ho 58 anni. Prima della riforma Fornero io dovevo andare in pensione nel 2015. Mi sono svegliata il giorno dopo la riforma Fornero con 7 anni in più. Già. E quindi dovevo andare in pensione nel 2022. Sì. Quindi da un giorno all'altro ho maturato, diciamo, 7 anni di scoperto. Sì. Che non so come possano essere gestiti. In tutto questo ho fatto una domanda, non so se sono un'esodata, sono andata al sindacato dirigenti, mi hanno detto che potenzialmente sono un'esodata, ho fatto una domanda al Ministero del Lavoro, non ho avuto nessuna risposta e sarei anche disponibile a questo punto a fare il riscatto degli anni di università pagando tantissimi soldi e passando da un regime misto. Però mi faccia capire, in assenza del riscatto degli anni di università lei maturava 2022. La pensione al 2015 no, o compresi? 2015, sì, no, in assenza, per vecchiaia io dovevo andare a 60 anni. Però non quella... avendo fatto il riscatto e rimaturando nel 2015 mi sembra difficile che abbia detto che lei è una sdata. Che dice Cazzola? No, io dico comunque che la legge, diciamo, la tutela degli esodati non riguarda coloro che... diciamo per i quali sono stati allungati i criteri, per i quali sono stati allungati i criteri del pensionamento. Questi non sono tecnicamente degli esodati. Purtroppo questi hanno avuto un allungamento dei requisiti, un incremento dei requisiti per andare in pensione. Gli esodati sono coloro che i diritti li avevano già maturati e si trovano quindi di fronte all'innalzamento scoperto. I vecchi diritti sono trovati di fronte a dei diritti nuovi. Stefania, ero ragionevolmente sicuro, ma Cazzola ce ne dà la conferma. Adesso abbiamo un minuto di informazione stradale. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta, 16:47, primi 22 secondi dagli studi Radio 24 qui di Milano. Stiamo parlando di lavoro, abbiamo cominciato con la questione degli esodati per tentare di capire se dopo l'articolo del Corriere della Sera 10 giorni fa davvero ci sia un mismatch, un conto che non torna così rilevante tra i trattamenti che l'INPS ha iniziato a pagare, 27.000, il numero totale di coloro per coloro che i 5 interventi di governo hanno accumulato, messo a riserva 11,5 miliardi di euro, cioè 156.000. Abbiamo ancora una telefonata, Pierluigi da Lecco. Prego Pierluigi. Buonasera, io sono l'esodato del credito. Allora, 60 anni, sono andato nel fondo esuberi il 1 luglio del 2009, sarei dovuto andare in pensione il 1 luglio del 2013. Naturalmente con la riforma Fornero c'è stato l'allungamento. Ricevo a febbraio la lettera che dice che ho diritto all'assegno di mobilità. Peccato che io dal 1 giugno dell'anno scorso che non percepisco più un euro. Non so di quant'è l'assegno, non so quando sarà pagato, vado all'INPS e mi dicono probabilmente la sua pensione è il 1 giugno 2014, probabilmente perché sa, ma l'assegno di straordinario di mobilità che avete mandato la lettera e non c'è la copertura. No, come sarebbe? Cioè lei ha un titolo formale che le diceva che da febbraio avrebbe riscosso quell'assegno, ho capito bene? Hai diritto all'assegno di mobilità, sì. Che ti dicono, che ti comunicheranno successivamente la data di fare domanda di pensione, sì. Però dal 1 giugno non percepisco niente, sono passati 7 mesi. Io non ho problemi, vivo con i miei risparmi. No, ho capito, però lei dice ho avuto una comunicazione formale per la mobilità e qui non si è vista. Che dice Cazzola? Dico che quello che dicevo prima, che è bene che queste trasmissioni facciano venire fuori le cose come stanno. Indubbiamente se il diritto gli è stato riconosciuto, gli sarà liquidato quando ci sarà la copertura. Quindi non credo che debba essere preoccupato di perdere questi mesi, anche se riceverà il pagamento in via successiva. No, volevo dirle però... che c'è un ministro Giovanini che sta lavorando a una proposta che dovrebbe risolvere una serie di casi che sono rimasti nel limbo. E qui ci arriviamo, perché la proposta del ministro Giovanini è quella di, per così dire, derogare rispetto all'innalzamento dei tetti per i trattamenti previdenziali della riforma Fornero, se ho capito bene, Cazzola mi corregga, se no, anticipando delle somme che poi il lavoratore essendo scoperto, prende adesso e poi a maturazione avvenuta del suo trattamento restituirà allo Stato. Se ho capito bene, dovrebbe funzionare così. Però naturalmente dal mio punto di vista questo, come parità attuariale, alla fine i conti tornano allo Stato, ma nel frattempo lo Stato dovrebbe avere le risorse da anticipare, e se non ce l'ha neanche per pagare la mobilità? Quindi lei capisce, noi abbiamo aperto i microfoni, abbiamo un mucchio di telefonate di gente che dice: io qua c'ho i titoli e non mi pagano. E la proposta Giovannini va bene, ma se lo Stato avesse soldi in più per pagare, oltre a quello che non paga, avendo detto che formalmente deve pagare, anticipando anche in termini di cassa poi una parte della pensione che poi verrà restituita dopo. Ma io la cosa che posso dire è che sulla carta, almeno in via di diritto, cioè i diritti come la pensione, i diritti soggettivi con la pensione vengono pagati comunque anche se, nel senso che le risorse si devono trovare, quindi io penso che le risorse si troveranno. Che io sappia, ecco, non si è mai verificato un caso in cui le pensioni, il pagamento delle pensioni viene sospeso. Io credo che in generale il pagamento delle pensioni avviene puntualmente quando è previsto dalla legge, insomma, perché sono diritti assolutamente che viaggiano su rapido, insomma, ecco, che sono assolutamente tutelati. Allora, ancora una telefonata, Vittorio che ci chiama da Lecco, no? Anche lei, sì. Sì, mi dottor dica. Giannino, buonasera. No, Giannino e basta, si figuri, faccia la domanda a Cazzola. Ascolti, mia moglie ed io siamo andati in pensione alla richiesta della pensione a giugno. Sì. Mia moglie dopo un mese o due gli è andata la pensione, però aveva degli arretrati dopo tre anni. Praticamente però noi siamo bloccati tutto dalla Equitalia. Storie che se vi racconto un giorno è una cosa allucinante. Comunque, gli ho percepito la pensione circa sui 600 euro. Al 20 di novembre aveva l'appuntamento in tribunale per la storia degli arretrati, circa 18.000 euro. Stabilito che gli portano via, non mi ricordo bene se è un decimo, sì, o un settimo, stabilito eccetera. Da allora non ha più saputo niente e le pensioni che sta percependo sono di 200 euro al mese, perché c'era quella storia lì, che è un'altra cosa. Però lei sa che ci sono, in questo caso c'è la decurtazione sul flusso di reddito, bisogna semplicemente controllare se nelle misure di attenuazione degli incassi di Equitalia a fronte di trattamenti previdenziali, bisogna vedere anche il vostro cumulo familiare e così via. Qui è una questione che non c'entra con quello di cui stiamo parlando. Io non ho ancora da prendere la mia pensione. Ah, lei non l'ha ancora presa nel frattempo? No. Ecco, però qui la questione ha a che vedere con la conformità del prelievo sulla pensione nel frattempo che percepisce sua moglie rispetto alle nuove norme di attenuazione delle richieste rispetto a un anno e mezzo fa che Equitalia faceva bloccando percentuali più elevate dei flussi di pensione. Quindi è una questione diversa. Io spero che voi vi siate fatte consigliare, e altrimenti mi mandi una mail che poi ne parliamo meglio da questo punto di vista. Sentiamo ancora Antonio da Milano. Prego Antonio. Buonasera Giannino. Buonasera. La situazione riguarda mia moglie, è del 52 maggio 52, biologa, ricercatrice, nel 2011 ha cominciato a chiudere la ricerca, l'ha messa prima in cassa integrazione e da novembre 2012 è stata messa in mobilità per tre anni, però pagando i quattro mesi di preavviso la mobilità scattava in realtà poi da febbraio 2013. Non si capisce quando potrà andare in pensione, perché dalle ricerche, l'interrogazione fatta sul sito dell'INPS risulta il 1 gennaio 2017. Preso l'appuntamento con un funzionario dell'INPS, ci dice no, è il 1 gennaio 2018, ci siamo fatti spiegare il perché e ha detto, l'unica cosa che ci ha risposto è scommettiamo che ho ragione io. Ah, scommettiamo che ho ragione io. Che dice Cazzola di questa scommessa come risposta dell'INPS? Noi vorremmo le buste arancioni per dare... Io penso che tutti i cittadini abbiano diritto delle spiegazioni più convincenti. Ecco, quantomeno. Allora, cerchiamo di capire, al di là di questa questione degli esodati, come ha visto Cazzola, basta aprire i microfoni, però per avere una realtà, poi bisogna vedere caso per caso, con risposte precise caso per caso, però forse la situazione non è solo come testimoniato dall'INPS sui 27.000, e quindi il nostro mestiere è quello di Cazzola. Sicuramente di anche esatto. Dei ritardi. Allora, ci faccia capire meglio, di queste questioni accumulate, io anzi quasi le direi che tanto varrebbe, lei può anche domani pomeriggio regalarci mezz'ora come oggi? Ecco, allora torniamo anche domani, perché mi dia retta che questo è un tema molto sentito, perché noi dobbiamo parlare anche almeno di alcune di queste proposte che si stanno affastellando nel Job Act, nell'intervento sul mercato del lavoro, perché io ho visto stamattina, se sommavo la mia considerazione sull'anticipo di pensione da restituire poi, quella di Giovannini di cui abbiamo parlato, interventi come quelli di Damiano, Cesare Damiano, la parte del PD che dice la riforma Fornero è stata sbagliata, bisogna tornare a consentire scivoli previdenziali a chi ha oltre 62 anni senza disincentivi superiori all'8%. Se ci aggiungo quello che dice la Camusso, iniziamo estendendo a tutti gli ammortizzatori, anche coloro che ancora non ce l'hanno, in cambio sì, leviamo la CIG in deroga, io ero arrivato a 16 miliardi di spesa in più, e la cosa non mi tornava molto, a dire la verità. Sbaglio io, secondo lei? No, no, non sbaglia affatto, non sbaglia affatto, cioè, bisogna vedere cosa si riesce a fare sul versante dei fondi di solidarietà, perché la via d'uscita che la riforma Fornero indicava come alternativa alla cassa in deroga, che peraltro è una cassa finanziata interamente dallo Stato, mentre la CIG ordinaria è finanziata dalla produzione, no? Quindi non ha senso, non ha senso che la cassa in deroga oltre diciamo il periodo di crisi diventi lo strumento ordinario per la copertura di chi non ha la copertura prevista dalla legge, quelli che sono senza cassa integrazione, no? E la proposta era quella di fare fondi di solidarietà del tipo di quelli che esistono nelle banche, negli istituti di credito, e che però, passi avanti non se ne sono fatti. Allora oggi fermiamoci qua, appuntamento per tornare su questi temi: esodati, pensioni, riforme del lavoro, domani alla stessa ora qui su Radio 24, sempre con Giuliano Cazzola. Continuate su Radio 24, intanto arrivederci.